America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. You've been great, the network has been great, but I'm retiring. This is really? Yep. This is true, this is, you actually did this? Yes, I did. David Letterman che annuncia il suo ritiro, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, vi ho dato la notizia quando davanti al suo pubblico ha fatto questo annuncio a sorpresa. Da allora, così, c'è stata un po' una caccia al successore. Chi sarebbe stato il successore del grande David Letterman su CBS, su questa rete televisiva che ha fatto storia anche per il suo Late Show? Ebbene, la notizia l'abbiamo avuta ieri. La CBS ha fatto l'annuncio. Sarà Stephen Colbert. On my favorite website, Wikipedia, the encyclopedia where you can be an authority even if you don't know what the hell you're talking about. It has over 1 million articles, but still no entry for tonight's word. Eccolo Stephen Colbert nel suo Colbert Report sul canale via cavo Comedy Central. Lui conduce un telegiornale satirico. L'anno scorso ha vinto l'Emmy per la migliore conduzione di un programma nella notte. E vi ho fatto ascoltare questo piccolo spezzone, ve ne faccio ascoltare due o tre per darvi un'idea di chi è il personaggio. E qui nel suo telegiornale affronta il tema di Wikipedia. Wikipedia la conoscete tutti o molti di voi la conoscono, è l'enciclopedia elettronica che si può consultare gratuitamente su internet, dove c'è di tutto. E se non che Colbert la prende un po' in giro, perché in effetti si trova di tutto, si trovano cose molto interessanti, anche scientifiche, però si trovano anche delle cose, diciamo, che non sono assolutamente attendibili. E poi comincia a prendere in giro, vuol dire Wikipedia, dicendo c'è la Wikilobby, c'è la Wikianimals, di fatto un po' così prendendola in giro l'ha distrutta. In realtà poi Wikipedia funziona, è utile, ma il suo spirito è davvero molto molto originale, perché dietro la finta di questo telegiornale e poi sulle cose di attualità riesce sempre a trovare un angolo spiritoso, ironico, ma mai offensivo, sempre garbato. E sentite come sviluppa questo suo concetto su Wikipedia. When Wikipedia becomes our most trusted reference source, reality is just what the majority agrees upon. To inaugurate Wikiality, I called on you heroes to change Wikipedia entries to say that elephant populations had tripled. You responded, the entries were changed and Wikipedia crashed. Ecco, qui lui dà un consiglio a Wikipedia. Dice, siccome qualunque cosa che si può scrivere vale, allora domani scriviamo che la popolazione degli elefanti è triplicata. E che succede? Che Wikipedia ha ripreso questa sua affermazione e l'ha messa in Wikipedia. E lui poi l'ha fatta vedere in diretta, dove si vede proprio preso da Wikipedia, dice: thanks to the works of Stephen Colbert, the population of elephants has tripled in the past. Secondo Steve Colbert, la popolazione degli elefanti è triplicata. Qua lo sentiamo invece alla White House Correspondent Dinner alcuni anni fa, perché la gran maggioranza degli italiani non sa chi è Stephen Colbert, giustamente un personaggio televisivo, quindi è molto americano, molto local, molto domestic, però è una grandissima celebrità da molti anni. E quindi qualche anno fa, quando c'era ancora Bush presidente, è stato invitato al dinner della White House, della White House Correspondent Dinner. Sentitelo. And tonight it is my privilege to celebrate this president. Because we're not so different, he and I. We both get it. Ecco, qui prende in giro George W. Bush, il quale è seduto letteralmente di fianco a lui. E Steve Colbert è un Democrat, è un uomo della sinistra, Bush è della destra. Eppure Colbert, nel momento in cui lo descrive, in questa frase che ho fatto sentire, dice: beh, io sono emozionato che lui sia qui con noi. Noi siamo della stessa pasta, siamo identici, siamo gli stessi personaggi fino in fondo alle viscere. E poi da lì ha continuato, come dire, mettendo in realtà in evidenza tutte le cose che li differenziavano. Io ho trovato, me lo ricordo quel dinner, ho trovato straordinariamente interessante e divertente vedere come il rapporto tra il potere e la stampa in America è davvero molto informale, perché erano a un metro l'uno dall'altro, si vedeva George W. Bush così seduto all'indietro sulla sua sedia, che così rideva un po' a fatica, devo dire, però rideva lo stesso, e Colbert che gli scaricava una mitragliata di battute. By the way, before I get started, if anybody needs anything else at their tables, just speak slowly and clearly into your table numbers. Someone from the NSA will be right over with a cocktail. Allora, vediamo chi è Colbert nel dettaglio. È nato il 13 maggio del 64, ha 49 anni, è nato a Washington, ha studiato come attore e lo si vede dalle sue interpretazioni. poi ha fatto un po' di teatro, poi ha fatto un po' di televisione, comincia il Daily Show nel 2005 e il Colbert Report, e in questa sua carriera, beh, ha vinto già 3 Emmy Awards. Il suo libro I Am America and So Can You, Io sono l'America e anche tu puoi esserlo, è stato il numero uno nella classifica del New York Times dei libri più venduti. Colbert a questo punto ha firmato un contratto di 5 anni come nuovo presentatore del Late Show di David Letterman, grande attesa. Vi confermo, vi ripeto, vi ricordo che comunque non comincerà fino a 2015 inoltrato, comunque fino a un certo punto del 2015. E uno dei suoi commenti dopo la notizia è stato, dice, essere un semplice ospite dello show di David Letterman è stato per me un momento fondamentale della mia carriera. Figuriamoci che cosa sarà indossare le scarpe enormi, e spero di farlo bene, di un gigante come David Letterman. Continua, non ho mai sognato di poter seguire i suoi passi, sono emozionato, grato per il fatto che la CBS mi abbia scelto. Adesso, se mi scusate, devo andare a farmi aprire un buco fra i miei incisivi. Perché? Perché David Letterman ha i due denti davanti che sono leggermente staccati, quindi anche in una comunicazione ufficiale è riuscito a trovare una nota di spirito, e Letterman gli ha fatto il controcanto. Steven è un caro amico, sono molto contento per lui. Tra l'altro, sapevo che CBS voleva un altro con gli occhiali. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPratero. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!